quindi dalle 10.30 a Montelanico ci sarà una giornata dedicata all'autoproduzione a sostegno di Radio Onda Rossa. Quindi ringraziamo ancora una volta il collettivo Terra Madre, nonché il branco Sudae, se l'ho pronunciato bene, che ha organizzato la scaletta di concerti che ci saranno dalle ore 15. E quindi un invito ancora a partecipare a questa iniziativa. L'email di redazione è ondarossa@ondarossa.info. Nonché l'email della trasmissione, potete scriverci a fantasma@ondarossa.info. Quindi per proporci le vostre autoproduzioni o se ci volete comunicare le vostre iniziative, troverete libero spazio su queste frequenze. Puntata che precede il 25 aprile. E iniziamo con un pezzo degli Airesis dedicata al partigiano Dante Di Nanni. E poi andremo a presentare la sfida di questa puntata, loro sono gli Airesis, questa è la loro Dante Di Nanni. In strada rumore di grida. caricatore del mitra restano se no 20 colpi. Di Nanni toglie un proiettile e se lo mette in tasca. Poi prende la mitra tra le sbarre e spara. Il primo nazista cade, il secondo lo manca, ma il terzo no. Ora sparano dalla strada, dal campanile e dalle case intorno. Gli stanno addosso, non ha più scampo. Toglie in tasca l'ultima cartuccia, la innesta e arma il carrello. Forse sarebbe il caso di finirla qui. E mentre intorno sparano ancora, punta l'idra al campanile e aspetta. Quando viene il momento, tira con cura e l'ultimo fascista muore sul colpo. Adesso non c'è più niente da fare. Allora Di Nanni si alza e in piega aspetta i suoi colpi. Ma intorno solo silenzio. Ed andiamo a presentare gli ospiti di questa sera. Buonasera, mi sentite? Forte e chiaro. Benissimo. Allora, questa sera... Dall'altra parte come va? Bene, no? Riusciamo a sentirci? Già un traguardo. No, vabbè, insomma, di solito sbaglio sempre cursori, mi dimentico le cose. Accadrà nel corso della puntata. Si sente anche nei podcast, non volevo dirtelo, ma... Vabbè, insomma, si fa quel che si può, insomma. E iniziamo con le presentazioni. Questa sera abbiamo ospiti a Do It Yourself Invasion la redazione di Sporco Dentro. Eccoci, carichissimi. Io sono il Valva, ho qua con me il Franco, bella, e il nostro caro Serbia, che essendo mezzo reggiano e mezzo croato, si è appunto beccato il soprannome di Serbia. Bella, buonasera. Bella, buonasera a tutti. Allora, iniziamo con un po' di storia. Sì, iniziamo intanto con i ringraziamenti a te per averci invitato, per aver finalmente dato corpo a una chiacchiera che era nell'aria da un po', questo discorso di interagire tra le varie esperienze che a modo loro usano la radio come mezzo di comunicazione, specie nell'ambito musicale, specie nell'ambito do it yourself. A te, alla redazione, a tutto lo staff di Radio Onda Rossa, l'esperienza qui, pur essendo lontani, siamo legatissimi, appunto, come dicevi tu nell'introduzione, per la storia, per il portato storico che ha. Siamo anche onoratissimi di essere stati introdotti dal jingle bellissimo di Mastello, che c'ha un tono che è metà Papa Francesco e metà un ritornello dei Mastodon. Non vedevamo l'ora di dirla questa. Sì, no, ma... Sì, l'ho pensata, Franco, l'ho pensato di notte. Un po' di storia, dicevamo. Noi siamo alla terza stagione di Sporco Dentro, che è un programma radio che principalmente si occupa di musica, diciamo, punk, hardcore, metal e loro ibridazioni, loro derivati, con un occhio di riguardo ovviamente a quello che è il panorama nostrano, a quelle che sono specialmente le declinazioni più impegnate, diciamo, quindi nell'ambito del do it yourself, anche i discorsi che travalicano l'aspetto prettamente musicale, pur non disdegnando l'aspetto anche della baracca, ecco. Siamo appunto alla terza stagione, da quest'anno le prime due stagioni le ho condotte io da solo, da quest'anno si sono uniti in pianta stabile anche il Pat e il Frank, e l'esperienza, diciamo, si snoda nel contesto di Radio Croda, che è un'emittente, una web radio, un'emittente esclusivamente web, è un progetto che non ha una matrice prettamente politica, ma per come è nato e per come viene portato avanti è un progetto assolutamente autogestito, assolutamente orizzontale, assolutamente do it yourself. Da 5 anni oramai Radio Croda sta trasmettendo ogni anno una 20-25 trasmissioni si alternano per quelli che sono gli 8-9 mesi di programmazione, e riusciamo grosso modo ogni sera, diciamo, a produrre del contenuto nostro, sempre essenzialmente di taglio musicale, appunto. Non è un emittente che abbia una particolare connotazione, un particolare carico politico. Senti, una carrellata brevemente sulle altre trasmissioni che si possono ascoltare su Radio Croda? C'è appunto nell'ambito musicale un po' di tutto, dal reggae al pop, ci sono trasmissioni di elettronica, c'è chi si occupa anche non strettamente di musica ma di cinema. C'è un esperimento interessante, una trasmissione di alcuni ragazzi che vanno in onda il mercoledì sera, che trasmettono spezzoni di film a tema intrecciati a una colonna sonora imbastita da loro. Ci sono i nostri colleghi di Bravi Ragazzi. Franco, dai, passo la parola al Franco che li presenta lui. Bella. Ciao Franco. Niente, salutiamo il Rosso e il Paco, okay. I Bravi Ragazzi, i nostri amici che ci allietano prima della puntata, quindi vi precedono. Comunque una gran bella storia. Bene, bene. E, allora, sporco dentro. Sicuramente parte delle vostre trasmissioni danno spazio appunto a una scaletta che preparate voi, e gran parte è dedicata all'esplorazione, alla comunicazione per quanto riguarda gli eventi live. Esatto. Ok. Esatto. Innanzitutto, diciamo che... localizziamo Radio Croda, insomma, l'epicentro geografico qual è? Certo, mi sono dimenticato di dirlo, oramai con i potenti mezzi dell'interweb siamo collegati a tutto il mondo e ho perso di vista di dire che siamo a Crema, nei dintorni di Crema, che attualmente è sotto il giogo della provincia di Cremona, ma presto provvederemo ad una sigla dei separarvi. Comunque sì, siamo dalle parti di Milano, grosso modo una trentina di chilometri da Milano, per localizzarci geograficamente. No, appunto, stavamo accennando alla comunicazione, allo spazio che date alla comunicazione degli eventi live, quindi tutto quello che gira un po' nell'area geografica intorno a voi, sbaglio? Sì, nell'area geografica intorno a noi, appunto, per via del fatto che la diffusione non è oramai limitata solo alla nostra zona, ci capita di sforare anche verso altre regioni dove sappiamo di avere qualche gancio, qualcuno che segue un po' l'evolversi della faccenda, della trasmissione, e diamo spazio a quello che ci sembra più interessante, sia dal punto di vista musicale, appunto, che magari dal punto di vista dei contenuti politici che un'iniziativa trasmette. No, scusate, nel frattempo io faccio gli affari miei, quindi no, da quello che insomma potete riportare dal vostro osservatorio di Sporco Dentro, nelle zone insomma geografiche, insomma, delle iniziative delle quali parlate, questo tipo di musica underground gira più in posti occupati, associazioni locali, com'è la vostra percezione del genere? La percezione, girando sia suonando che girando per concerti, che appunto cercando di dare copertura a un po' una spinta agli eventi che ci sono in giro, un po' l'idea, diciamo, è abbastanza chiara. C'è ancora forte e vitale il filone molto legato appunto alle esperienze degli spazi occupati, degli spazi autogestiti, e direi in questo momento ha forse una leggera prevalenza invece tutto quel mondo del associazionismo tipo ARCI, o realtà simili, in cui molti eventi appunto prettamente musicali trovano ormai agibilità anche in generi abbastanza particolari, diciamo. Estremi è un aggettivo che non mi piace molto, e alcuni di questi posti funzionano molto bene, e devo dire per certi versi anche loro, pur seguendo tutta un'altra dinamica al loro interno, sviluppano una sorta di meccanismo, magari non di autogestione, però orizzontale comunque, di comunicazione, di condivisione di un'esperienza che ha un taglio assolutamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati noi, appunto, che ha una connotazione più militante, più impegnata. Sono realtà che da quel punto di vista funzionano molto bene e in questo momento stanno tirando. Il dato assolutamente positivo è che, per esempio, noi a Benevento siamo molto vicini a Milano. Milano è una città in cui invece il giro più politicizzato negli ultimi anni si è dato una bella svegliata, si è data una bella mossa e sta funzionando molto bene. Ricordiamo ad esempio le 5 giornate del... Esatto, era un appunto che ci volevamo, ci siamo fatti, di una cosa di cui avremmo voluto parlare, appunto. Ovviamente stando geograficamente molto distanti non avrebbe molto senso proporti il concerto di mercoledì prossimo sotto casa mia, però magari un'iniziativa come le 5 giornate di Milano vale la pena che venga riportata, perché appunto queste giornate intitolate così, facendo verso alle 5 giornate risorgimentali, sono sostanzialmente organizzate da un po' tutte le realtà che si muovono nell'ambito hardcore, do it yourself di Milano, e limitrofi, perché l'anno scorso era coinvolto e sicuramente lo sarà anche quest'anno, per esempio anche il Boccacci di Monza, che è un posto fighissimo sotto tutti i punti di vista, è un posto veramente attivo dove di roba ne gira tanta, le serate funzionano bene e si riesce anche a comunque veicolare un certo tipo di contenuti anche semplicemente nel come si organizza una serata, come si comporta in una serata. È un posto della vecchia, per capirci. E appunto le 5 giornate di Milano saranno 5 giornate all'inizio di luglio in 5 luoghi con 5 concerti diversi, dove diciamo si coagula un po' tutto quello che durante l'anno viene fatto in maniera indipendente. E finalmente, dico io, che è una cosa che non si è mai vista a Milano, non pestandosi i piedi l'uno con l'altro, il che significa che durante l'anno se c'è una serata in un posto tu meglio organizzi in globo in un altro. No, ma sono aperti, diciamo, questi canali di comunicazione che effettivamente stanno rendendo. Ma anche perché magari è proprio un'esigenza, no? Appunto di vivere un'iniziativa oltre quello che può essere la fruizione del concerto, no? Tra virgolette. Sì, assolutamente. Senza demonizzare in particolar modo niente in particolare, no? Le hai citate tu prima, ci sì, sono tutto il mondo Arci, abbiamo degli ottimi esempi anche qua a Roma, gente che si sbatte, che propone musica underground anche fuori dalle logiche commerciali. D'altro canto ti faccio un'altra domanda, sì. Visto che un po' cioè magari credo hai avuto esperienza negli anni passati, così la butto lì, l'esperienza dei centri sociali, sì. Sono tuttora un posto preferenziale per la musica underground? Dal tuo punto di vista, dalle tue esperienze? Allora, dalla mia esperienza in questo momento no. Mm-hmm. Da quello che piacerebbe a me, sì, nel senso, certo. Mi piacerebbe che si riuscisse ancora in un qualche modo, adesso passami una parola un taglio un po' leninista magari, che si riuscisse a essere ancora in un certo senso un'avanguardia. nel campo, diciamo, della sperimentazione, ma non sempre pensare a cose estreme, però che ci fosse un attimo più vitalità, un attimo più dinamismo. Invece, se devo essere sincero, tante volte si riscontra da quel punto di vista qua un po' un ambiente un attimo stagnante, che non può essere di sicuro quello che, vabbè, io per ragioni anagrafiche ho conosciuto solo la coda, però quello che era, se non altro, la metà, alla fine degli anni 90, in cui cioè adesso appunto avanguardia non è magari un termine esatto, però il mondo dei centri sociali era sicuramente più al centro di quella che era anche la proposta culturale. Si dava anche spazio, insomma, al gruppo nuovo emergente, mentre spesso si vede ultimamente, per carità, ben venga, però una sorta di revival di tutto quello che è stato classico, dell'iniziativa grande. C'è un po' questo senso ogni tanto di non essere proprio sul pezzo, ecco. Poi anche lì generalizzare è sbagliato, ci sono posti e posti, ci sono realtà autogestite, occupate, che hanno un occhio di riguardo per queste cose. In assolutamente. Cui, cioè, mi viene in mente un posto storico di Milano, Conchetta. In Conchetta ancora adesso di proposte musicali ne girano un sacco, e non ci gira solo il nome grosso, non ci gira solo la roba che tira, e non ci gira solo il revival, la roba scontata. Così come d'altro canto faccio un marchettone, siamo stati giù, nell'occasione in cui ci siamo poi conosciuti di persona, certo, al Dal Verme lì a Roma. Il Dal Verme è un posto che non è occupato, non è un luogo di militanza politica, però dal punto di vista della proposta musicale, culturale, ha l'apertura che a me piacerebbe vedere nel nostro contesto, certo, naturale. Dico nostro perché do per scontato che sia anche il tuo, ovviamente. Certo. Quello dell'appunto dell'esperienza dei centri sociali, chiamiamoli come vogliamo, comunque di movimento, di militanza, ecco. Però insomma mi ricollego poi alla terza via, no? Quella che abbiamo anticipato come esempio per quanto riguarda la scena. La terza via non è delle robe strane, terza no, già, nel senso tra associazionismo e spazio occupato che non dà spazio alle novità, alle sperimentazioni di gruppi emergenti. Poi ci sono situazioni come le 5 giornate che sperimentando danno occasione di vivere una socialità diversa e quindi anche una forma di aggregazione che è necessaria, poi, no? Sì, assolutamente, ma poi ripeto, ci sono buoni e cattivi, se vogliamo semplificare esempi, in entrambe le galassie. Io penso che di questi tempi, tu hai detto portare una socialità di un certo tipo, già quello nell'era del web 2, 3, 4.0, non so dove siamo arrivati, sia un gesto intrinsecamente politico. Mettere insieme le persone, mettere insieme a fare cose, a occuparsi del loro tempo. A farlo insieme senza deleghe. Magari in un momento può essere anche un tempo leggero, può essere anche il tempo del divertimento. Ma di questi tempi, delle nostre parti, diciamo, con questi chiari di luna, è già un bel passo anche quello, penso. Senti, invece, parlando proprio di Crema, com'è la situazione? Vabbè, Crema è una cittadina proprio piccina, dove dal punto di vista musicale ci sono sempre state tante esperienze di tanti tipi, con un taglio molto molto provinciale, però poca gente che è uscita, che ha messo fuori il naso. Negli ultimi anni, soprattutto, io dico ovviamente perché quello che ho riscontrato nella mia esperienza è questo, che per chi fa hardcore uscire dai propri confini locali è più semplice, perché c'è un giro che comunque è molto attivo, è molto attento, è vitale, anche se le acque non sono delle migliori, ma senza piangersi addosso è un giro vitale. Per tanta gente che fa altri generi è assurdo pensare di pigliare la macchina e andare in Emilia o in Piemonte, o addirittura scendere a Roma è una pazzia. Ultimamente, da quel punto di vista, invece ci sono diversi gruppetti che fanno robe strane: chi fa rock and roll, chi fa il rockabilly, chi fa un po' di punk, un po' di robe bastarde, qualcuno che ancora fa dell'hardcore, che comunque gira, si avvicina ad un modo che è quello nostro, appunto, do it yourself, di fare le cose, che sta cominciando a girare e sta portando i suoi frutti, perché qui da noi esperienze di posti occupati sono state negli anni passati. Mm-hmm. Le acque ultimamente non sono esattamente le migliori, e le esperienze di questo tipo mancano da molto sulla città, quindi anche qui si converge parecchio su un circolo Arci, che è il circolo Arci di Ombriano, che è un po' il riferimento anche nel quotidiano, nella socialità quotidiana, per un certo giro di persone che a modo loro interpretano una filosofia che è quella, appunto, del do it yourself, del tirarsi su le maniche e pensare per sé. Noi siamo sempre stati abituati, appunto, essendo una città molto, molto piccola e molto provinciale, cioè la gente qua si aspettava che veniva il produttore e suonagli a casa per dirgli: guarda, ti faccio il disco, ti faccio girare il mondo. Mi fa piacere riscontrare, appunto, qua sul locale, proprio che questa tendenza si è un po' invertita negli ultimi tempi, e c'è una buona ricaduta anche sulla città, perché cominciano di riflesso a girare anche dei gruppi da fuori. Mm-hmm. Sai, conosci l'amico, lo inviti a suonare, rompi i coglioni un posto per farti organizzare una serata, le acque si muovono, noi contribuiamo. Beh, non si muovono di certo da sole, dall'impegno di tutti, no? Certo, assolutamente. Ok, senti, allora, io direi che, insomma, dopo un po' di chiacchiere, magari qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa, sono curiosi di scoprire quello che è Sporco Dentro. Lo faremo a distanza e io vi lascerei la conduzione. Io sono pronto. Allora, qui con... accettiamo noi il timone. Io, prima di passare, certo, la parola ai ragazzi e bermi tipo 2 litri di aranciata amara, certo, per assorbire questo parlato, direi di lanciare gli Zi Dima. Perfetto, allora ci siamo. Cosa dici? Sì, no. Che è il gruppo che abbiamo anticipato oggi sull'evento di Facebook. Li abbiamo avuti sì in trasmissione, che a suonare da noi sono cari amici. Io direi di lanciarli e poi ci facciamo sopra 2 chiacchiere, ok? Benissimo. Allora, da Sporco Dentro, gli Zi Dima. 7 sassi, via. Scoparti forte e scoparti bene. specchio continueremo a dannarci. Avremmo dovuto imparare la differenza tra suonare forte e suonare bene. Avrei dovuto imparare la differenza tra scoparti forte e scoparti bene. Ed eccoci qua, ci siete ancora, sì? Ci siamo, certo, certo, certo. Qua l'atmosfera qua negli studios si sta facendo frizzante, negli studios del Conte. Tra l'altro c'è un pollo blu appollaiato su un subwoofer che ci guarda da tutta sera. Franco, mi sta un po' inquietando. Franco, lo facciamo fuori prima della fine della serata, ci perdoneranno gli amici vegani all'ascolto. Allora, gli Zidima abbiamo aperto con gli Zidima perché io, vabbè, mi sbilancio. In 3 anni di trasmissione noi abbiamo mediamente sempre ospiti, no, rega? Cerchiamo di fare quello fondamentalmente, di ospitare i gruppi che ci garbano o le etichette o i posti che organizzano concerti per scopi meramente personali, no? Solo marchettoni, sì, siamo una trasmissione di maledetti marchettari, ci piace un sacco. No, in realtà anche al discorso della marchetta, serve, dice Marchetta, stile di vita, però ha un suo perché nel nostro giro. Cioè, la Marchetta è, noi lo diciamo scherzosamente, però è dare spazio a chi hai direttamente conosciuto e pensi che meriti quello spazio. E fondamentalmente è un po' un meccanismo, secondo me, positivo di aiuto reciproco. Io spingo te, tu spingi me, io magari voglio in giro a suonare, conosco uno che mi garba, sono contento di mandarlo in radio, perché spingitori di spingitori su Educational Channel. Vedo che qui saliamo di livello proprio, ci siamo trovati questa sfida finirà malissimo. No, appunto, in 3 anni di trasmissione, secondo me gli DDM sono stati l'intervista più bella che abbiamo realizzato, per il feeling complessivo che si è creato su tutti i livelli, appunto, sia musicalmente, noi a tutti quanti piace un sacco, umanamente sono delle persone speciali, abbiamo avuto anche l'occasione di averli direttamente in studio ed è stata veramente un bel colpo. Sono un gruppo bellissimo da vedere dal vivo, che suona veramente. Loro sono liguri, se non erro. Come? No, dico, sono liguri? No, sono brianzoli. Ah, pensa, vabbè. Sì, sono brianzoli, fanno al boccaccio, ecco. Anzi, credo che abbiano dentro proprio una sala prove al boccaccio. Ok. E dovessero capitare dalle vostre parti, o se siete in ascolto qualcuno da altre regioni che si ritrova nei paraggi, andate a vedere il Franco. Se li ha beccati giusto al nostro arci di riferimento, ce la racconta com'è andata. Ciao Franco, ciao. Mi senti? Sì, sì, sì, okay, forte e chiaro. No, Figaro, Zidima grandissimi, sono proprio dei poeti, poi sono anche compagni, quindi ci piacciono doppiamente. Bene. E infatti erano venuti a suonare qui, se non mi ricordo male, a febbraio, e appunto dall'esperienza della radio poi era nato anche questo, ed era stata una cosa molto interessante. E no, Figaro ha fatto uno show bellissimo, e no, grandi, grandi. Poi Manuel e Cosimo che erano venuti in trasmissione, sono due persone fantastiche. Vabbè, proprio potete sposarli. Se no, no, no, no. Cioè, vabbè. Ma poi. Poi è proprio questo, no? il senso di queste trasmissioni come questa e tante altre e la vostra in particolare, appunto, di promuovere alcuni gruppi e conoscerli, creare una relazione ed andare ad ampliare quello che è un po' la rete. A parte il punk hardcore, insomma, di un modo di fare musica, di vivere una certa socialità, e in alcuni casi coincide con un modo di vedere la politica anche, no? Sì, ma infatti per esempio un'altra esperienza che non è intesa nella politica, però comunque si muove in una maniera sempre un po' autogestita, così, che abbiamo incontrato sono i ragazzi di Piacenza della Desert Fox Record, che si può intuire dal nome sono più orientati verso un ambito stoner, heavy psy, quel genere lì, e pur non avendo appunto un'impronta politica si muovono, si autoproducono i dischi, si portano giù un sacco anche di gruppi esteri, sempre in zona Piacentino questo, e anche loro sono dentro una situazione di un arci, l'Arci Bonico, che si muove molto bene sempre in zona su questa promozione sia dei gruppi che fare concerti anche concertoni, diciamo. Ok, allora vogliamo continuare con la scaletta? Che ne pensate? Ok, sì, dai, ti mandiamo dei nostri altri ospiti. Sono stati tra i primi in trasmissione questa stagione, Yo. Ok. Con Morire, anche loro simpaticissimi ragazzi. Sì, dove Valdo? Sono di Biella, Yo, ma poi a loro aspetta un'altra leccata di culo dopo il petto. Va benissimo. Allora, a più tardi per la leccata, loro sono Yo e questa è Morire. Da sporco morire, dentro. Via. Yeah. eccoci di ritorno. Ci siamo? Sì, sì. Non mi siete attenti, eh? No, perché vi rilassate, perché tanto dite io con lo streaming, stavamo scappocciando qua, io, il Franco, il Patti e il Pollo Blu, e ci siamo un attimo distratti. Ma il Pollo perché Blu, perché io sono un'assoluta macchina da guerra. Sono un'assoluta macchina da guerra. Su disco rendono tanto, dal vivo rendono il doppio. Io ho avuto l'avventura di suonarci insieme credo una ventina di volte. Con i Lamantide, ricordiamolo, insomma. Con i Lamantide, sì, sì, così ne approfittiamo anche per un altro marchettone. Certo. Non li ho messi in scaletta perché so che li hai già mandati, altrimenti sì, sì, guarda, sì, spudoratamente l'avrei fatto. Appunto, sono stato insieme veramente parecchie volte, li ho visti tante volte dal vivo e di serata non ne sbagliano una, sono veramente super compatti, sono personaggi più dal palco superlativi, sa spaccarsi da ridere sempre. E appunto propongono questo nuovo black, post black, bastardato con l'hardcore, secondo me con un taglio personale come riesce a pochi, perché è un genere che ultimamente sta andando parecchio, e come è stato magari qualche tempo fa per il post metal, Isis e derivati, è facile scadere nella, un po' nell'anonimato, nel fare le cose bene ma non avere personalità. Secondo me loro sono un gruppo che ha personalità, poi che cosa sia personalità possiamo stare qua, questa è la prossima trasmissione, a parlarne, magari non andiamo d'accordo, però anche loro consigliatissimi. Pietra è il disco da cui è tratto questo pezzo, e vi consiglio di cercarvelo, e se appunto passano anche loro sotto casa vostra, andatevi a vedere. Bene, bene, bene. Allora, continuamo? Cioè sì, che domande? Siamo qui per questo, quindi. Con uno degli ultimi gruppi che abbiamo avuto ospiti, che sono anche loro amici di lunga data, e ci colleghiamo a un altro bel discorsetto poi nel parlato prossimo. Sono i Disfall. Ok. E il pezzo si intitola Doder in Lai. Serbia, va bene, no, Ashtag, non me lo dico perché non sono capace. comunque i Disfall sono nostri colleghi, perché anche loro hanno sotto mano un programma radio su un'altra emittente storica che è Radio Onda d'Urto. Direi che nel prossimo parlato dedichiamo un bel marchettino anche a loro. Certo, benissimo. Ok, allora prontissimi. Disfall. Disfall. Eccoci in voce, croccantissimi, croccantissimi come sempre. Allora, Disfall. Sì, i Disfall prima si chiamavano DCP e ci tengo a dire che facevano Frana la curva degli Erode. Ah, è la loro condanna. Ancora adesso, a distanza di anni, che hanno cambiato nome, genere e tutto quanto, beccano in giro la gente che glielo chiede. Amici, se vi capita di beccare i Disfall a un concerto, tormentateli. Frana la curva. Comunque i Disfall li abbiamo avuti ospiti credo un mesetto e mezzo fa, e oltre al gruppo di loro ci interessa anche il fatto che, a parte essere dei carissimi e di lunga data ormai amici, conducono Revolution Rock su Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è l'omologa, diciamo, di Radio Onda Rossa, ma a Brescia. Certo. È un'emittente storica, ha festeggiato quest'anno i 30 anni di vita e appunto ospita Revolution Rock, che è una variante di una serie di trasmissioni che vanno in onda ogni lunedì. I ragazzi appunto che curano la parte Revolution Rock, in onore ovviamente del pezzo dei Clash, curano la parte un po' più interessante dal nostro punto di vista musicale, vanno in onda, se non mi sbaglio, ogni primo lunedì del mese. Con loro ci interessa appunto attivare momenti come questo di stasera, di condivisione, cercare di farci insomma un attimo una chiacchiera per capire cosa si può condividere tra persone, gruppi, redazioni, come non ci piace tirarsela noi, che di fatto fanno la stessa cosa in posti, in momenti diversi. No. E ci faceva molto piacere, forse più di ogni altro, fare questo di marchettone stasera. Quindi raccomandarvi di seguire loro. Ovviamente la Radio Onda d'Urto va sia in FM che anche in streaming, beccati podcast, se siete su Facebook o su qualche canale social verrete sicuramente inondati se vi andate a cercare anche dal loro spam. Cerchiamo di appunto sostenere un po' anche queste esperienze. No, sono beh, poi dei momenti interessanti anche di riflessione rispetto, certo, a quello che facciamo magari in automatico tutti i giorni da tanto tempo, anche, no? Meno adesso, divagando un attimo, per me inizialmente è stato anche questo un modo per mettere un punto e fare una somma di un po' di esperienze che hai fatto, con cui sei venuto a contatto, ecco. No, beh, colgo l'occasione insomma pure per raccontare a chi ci ascolta da quali chiacchiere viene fuori questa puntata. Appunto, esatto, è quello che tu hai detto, insomma, andare a conoscere poi noi quando possiamo andiamo a conoscere sempre collettivi che organizzano concerti in un certo modo, se possibile piccole distro, etichette e quant'altro, e la puntata di questa sera è un po' l'inizio di un'esplorazione appunto di altre trasmissioni musicali che con le quali possiamo condividere alcuni percorsi e appunto soprattutto supportarle, ma metterci in relazione e andare a certo. Rafforzare quella rete di conoscenze e di interazione appunto che abbiamo citato prima più volte, insomma. Quindi vabbè, lo lanciamo, cioè colgo l'occasione pure per lanciare una futura puntata con Revolution Rock, quindi insomma se sono all'ascolto altrimenti glielo dico io, mi faccio dare anche tipo un 20-25 euro per il marchettone. Benissimo, certo, perché insomma non è che siamo tutti buoni così, no, bisogna anche usare delle modalità radio, brutali. Il progetto do it yourself della radio, per carità, non è che me li imbosco io. No, invece scusami, un'altra cosa, che già che siamo in argomento, Radio Onda d'Urto appunto a sede a Brescia, e ogni anno dalla metà alla fine di agosto si tiene la festa della radio, che è la festa mega galattica della radio. È uno degli eventi musicali più grossi che ci siano in giro. Sono 15 giorni di concerti anche di nomi grossi filati. C'è un gruppetto quest'anno che serve a sostenere le spese dell'emittente di Radio Onda d'Urto. È una festa che ha una certa connotazione, quindi anche si trovano all'interno stand che espongono vessilli molto chiari, per capirci, una festa di compagni proprio. E quest'anno il clou della festa sono i Neurosis. C'è un gruppetto, quindi, così. Un gruppetto. Anche gli amici dell'Urbe, magari una trasferta per vedersi il giro del trentennale e l'unica data italiana, magari al nord ce la fanno. Cade anche in agosto, cade anche nelle ferie, magari chi viene ci vediamo lì, insomma. Offro da bere io, sì. Se venite e mi dimostrate che avete ascoltato questa trasmissione, offro da bere io, va bene. Cioè potrei salire, però te ne puoi pentire di questa cosa qui, vabbè. Potresti di questa promessa. Guarda, se hai bisogno di un'ospitata la faccio volentieri, me ne pento poi il giorno dopo. Certo. O anche dopo 5 minuti, chissà. O anche se mi sfondi le finanze in 5 minuti ti faccio veramente i complimenti. Va bene. Senti, allora, innanzitutto ricordiamo come sempre, come il nostro solito, Do It Yourself Invasion invade sempre lo spazio della trasmissione che ufficialmente inizia alle 10 in punto, che è Apostasia. Quindi rimanete all'ascolto perché tra poco inizia Apostasia. Grazie. No, però insomma mi tranquillizza. Grazie mille, grazie. Già nello studio mi fa dei gesti, insomma mi tranquillizzo, mi rilasso. Oh, ok, allora possiamo andare avanti un'altra mezz'ora, insomma. No, vabbè, insomma. E vogliamo continuare con la scaletta? Ma sì, dai, mandiamo ancora degli altri nostri ospiti. Anche loro, come gli dicevo, sono stati ospiti in trasmissione ancora nella prima stagione, e poco tempo fa sono stati ospiti qua da noi a suonare. Sono i milanesi Council of Rest. Benissimo, sì. Il pezzo è Arbor and Domes. È un altro gruppo molto interessante dell'hardcore. Ma a me piace definirlo, diciamo, senza aggettivi, magari un po' più classico, fatto veramente molto bene. Anche loro sono squisiti, sia sopra che sotto il palco. Mm-hmm. Direi di ascoltarceli. Ok, allora dalle selezioni di Sporco Dentro, Council of Rats. Dai. ci siamo. Eccoci. Sì, no, ovviamente mi perdo, insomma, sempre nei miei secondi di pausa. E Council of Rats. Sì, appunto, i Council of Rats, diciamo, arrivano da Milano, hanno fuori questo Il Weathers, che tra l'altro è uscito su Adagio, etichetta berlinese non da poco. Mm-hmm. E gruppo veramente veramente interessante da vedere dal vivo. Qualcuno di loro ha tra l'altro le mani in pasta nell'organizzazione di un posto che abbiamo nominato prima, che è Cox 18, che okay. È Conchetta, appunto, un posto storico milanese, e sono tra quelli che contribuiscono, appunto, a mantenere vivo e alto l'interesse rispetto a certi discorsi un po' più vitali, ecco, un po' più in fermento dal punto di vista musicale, anche in certi ambiti, come dicevamo prima. Grazie Pate. Niente, beccatevi il disco Il Weathers, appunto, se ve lo volete acchiappare via web da qualche distribuzione, o sentitevi dal vivo. Sono un gruppo che gira parecchio anche su in Europa, si fanno spesso il turettino, la settimanella via, veramente veramente validi. Sì, se non erro sono passati anche per Roma tempo fa, insomma, credo all'Ateneo Squat. Sì, E allora, cara redazione di Sporco Dentro, siamo giunti al termine. Carissima redazione di DIY Invasion. Sì. Allora, quindi è arrivato purtroppo il momento di salutarci. Ai noi. Quindi vi devo lasciare per forza con il pollo blu. Avete un pollo blu, no? I conti, pollastro. Certo. Va bene, io niente, insomma, vabbè. Poi per salutarci passiamo un ultimo pezzo dalla scaletta che avete scelto. Vi ringrazio veramente per l'interazione e la collaborazione che avete dimostrato, insomma, partecipando a Do It Yourself Invasion. Ma grazie assolutamente a te per l'invito a Radio Onda Rossa, a cui auguriamo lunga vita e invitiamo tutti quanti a sostenerla. Per la possibilità che ci avete dato, assolutamente. Dai, allora noi ci siamo, non facciamo che la collaborazione finisca qui in questa puntata, continueremo a sentirci e appunto a creare quel piccolo anello di rete che appunto abbiamo parlato prima, insomma. Volentierissimo. Va bene, allora. Se posso chiudere, sì. Ricordo solo un attimo i nostri contatti. Certo, scusa. Radiocroda.com è il sito di Mamma Radio, l'emittente web che ci ospita. Noi andiamo in onda un mercoledì sì e uno no. Per sapere quando, o guardate sul sito della radio o ci seguite su Facebook. Su mixcloud.com trovate tutti i podcast delle nostre precedenti 40 qualcosa puntate. Benissimo, va bene. Allora, grazie ancora, grazie a tutti. Grazie mille a te. Dai, allora. Facciamo l'ultimo pezzo. Sì, sì. Dai, allora, a sentirci presto. Appunto, vabbè, poi la trasmissione, il podcast sarà pubblicato sul sito di Radio Onda Rossa, andando a cliccare su Palinsesto e quindi su Giovedì. Cercando il link appunto di Do It Yourself Invasion troverete il podcast della trasmissione con tutti i contatti di Sporco Dentro e Radio Croda, e questo, insomma, vogliamo scegliere il pezzo per salutarci? Sì, dai, come pezzo di chiusura mettiamo un pezzo che non c'entra niente con la trasmissione, perché non sono stati ospiti, quindi infrangiamo la regola che ci eravamo dati. Mm-hmm. Però sono un gruppo fighissimo, anche loro, visti recentemente dal vivo, sono una malata in faccia. Arrivano dal canadese, se non mi sbaglio, da Cuneo, quindi sono piemontesi anche loro come io. Si chiamano Ruggine. Perfetto. Hanno uscito nel 2014 Iceberg, un disco veramente veramente fighissimo, batteria, due bassi, chitarra, cantato in italiano molto davanti, testi stupendi. Non si sono sciolti dopo questo disco? Vabbè, era una battuta. No, vabbè, Iceberg, niente. Ok. Direi più che una battuta, una freddura a questo punto, se mi tocca venire dietro. No, non si sono assolutamente sciolti. Secondo me, nei prossimi giorni puntano anche a sud. Quindi adesso non ho sotto mano esattamente le loro date, ma è facile che arrivino anche dalle vostre parti. Altro gruppo che veramente dal vivo spacca, guardateveli. Bene, va bene. Allora, cari Sporco Dentro, a prestissimo, grazie ancora. Carissimo Dario, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dai, ciao. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao. minuti primi. Ringraziamo sempre da queste parti la bontà di Apostasia. Forse sopporta. Non so se è stato già detto dai microfoni di Radio Onda Rossa. Sono tornate in stock le magliette totalmente autoprodotte. E quindi stampate da noi, grazie all'aiuto della serigrafia dell'Hollis Underground. Quindi grazie, grazie di cuore al dell'Hollis Underground. Potete trovare le fantastiche magliette di Radio Onda Rossa con due grafiche, tanti colori. Insomma, sostenete Radio Onda Rossa anche acquistando la fantastica maglietta di Radio Onda Rossa. L'appuntamento lo ricordo invece per l'iniziativa di domenica 24 aprile dalle 10:30 a Montelanico, un'iniziativa ideata e voluta dal collettivo Terra Madre. E quindi questa domenica 24 aprile dalle 10:30 a Montelanico. Quindi ringraziamo tutte e tutte per l'ascolto e la pazienza. Ringraziamo Sporco Dentro per la collaborazione e l'interazione. E il saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano privati dalla loro libertà personale. Un abbraccio. E quindi a risentirci a giovedì prossimo dalle ore 21 con un'altra puntata di Do It Yourself Invasion. Continueremo con i racconti in collaborazione con il collettivo Kalashnikov. Rimanete all'ascolto, tra poco Apostasia.